Mediaset. Approfondimento settimanale sul lavoro, Metropoli Controllo. Un programma di Cristiano Muccini e Andrea Pavin in collaborazione con Amisne. Un saluto a tutte e tutti dalla redazione di Mediaset. Oggi ultima e dodicesima puntata del ciclo di Mediaset. Andremo a parlare di lavoro informatico, di storia del lavoro informatico, anche chiaramente dell'attualità dello stesso tipo di lavoro, di ICT. Parleremo di tutto ciò. In linea con noi Nicolà, un lavoratore informatico, e dalla regia Andrea, alla voce Cristiano. Scelta per calmarti, eh? Droghe! Che cosa ti hanno dato, Terazina? Aldol? Quanto? Conosci le droghe, conosci i dosaggi, è elementare, bisogna... Devo fare una telefonata. Una telefonata? Sì. Una telefonata vuol dire comunicare col mondo esterno, è a discrezione del dottore. No. Ehi! Se tutti questi svitati telefonassero, la pazzia dilagherebbe attraverso i cavi telefonici e perforerebbe le orecchie di tutte quelle povere persone sane, infettandole, capisci? Svitati dovunque, la piaga della pazzia. Forza, andiamo. In effetti siamo pochi qui, vieni. Siamo pochi ad essere malati di mente qui. Non parlo di te, magari tu sai che so, tu sei veramente schizzato come un cavallo. Ma non è per questo che sei qui. Non sei qui per questo, non sei qui per questo. Sei qui a causa del sistema. Vedi la televisione? È tutta lì la questione, è tutta lì la questione. Guarda, ascolta, inginocchia, ti prega. La pubblicità. Non produciamo più niente, non serviamo più a niente, tutto automatizzato. Che cazzo ci stiamo a fare? Allora siamo dei consumatori, Jim. Ah, ok, compri un sacco di roba da bravo cittadino. Però se non la compri, che succede? Se non la compri, che cosa sei, ti chiedo? Che cosa? Un malato mentale. È un fatto, Jim, è un fatto. Se non compri la carta igienica, una macchina nuova, un frullatore computerizzato, un attrezzo elettrico per orgasmi multipli, un impianto stereo con le cuffie che ti spappolano il cervello, cacciaviti con impianti radar miniaturizzati incorporati, computer ad attivazione vocale. Fior d'amaranti, l'amore nuovo. Allora, in linea con noi Nicolà, innanzitutto un saluto. Ciao. Ciao. Allora, Nicolà, con te volevamo... abbiamo in questa ultima puntata deciso di parlare di lavoro e informatica. Appunto, brevemente, già abbiamo avuto modo di parlare tra di noi di questo. Il lavoratore spesso informatico spesso non gode degli stessi diritti o non ha non è regolato dalla stessa contrattazione collettiva nazionale, anzi non ha una contrattazione collettiva nazionale, spesso è assolutamente in balia del mercato. Brevemente, la tua idea, qui parli evidentemente come individuo, come lavoratore che da tempo appunto si professa nell'informatica. La tua idea della storia dell'informatica, in questo senso, del lavoratore informatico? Ma il lavoro di massa informatico, diciamo che nasce negli anni Ottanta, perché prima era molto limitato, era limitato ai settori militari e universitari, e poi c'era qualche grandissima azienda che poteva permettersi di avere lavoratori informatici, semplicemente perché i computer non erano diffusi. Però 25 anni dopo, ancora, per esempio qui in Italia, il lavoratore informatico formalmente non esiste. Ci stanno i lavoratori informatici, di solito sono inquadrati nei contratti dei metalmeccanici o delle telecomunicazioni. Quindi sono privi sostanzialmente di un contratto nazionale come tutti. Oggi l'attualità quindi del lavoratore informatico è, come già abbiamo detto, è assolutamente nella giungla. A cosa fa riferimento però, come dire, il salario? Parliamo del salario di un lavoratore informatico, quindi non fa riferimento a nulla, cioè varia, dipende dal committente, dall'azienda o dal privato per cui lavori. Sì, sostanzialmente tutti i salari dei lavoratori informatici si basano su contrattazioni individuali, anche nelle grandissime aziende, e addirittura è una pratica abbastanza diffusa, il salario è più o meno un segreto, nel senso che ovviamente non è legale proibire di divulgare il proprio stipendio, non si può impedire ai lavoratori di dire ai suoi colleghi quanto si prende, però viene caldamente consigliato. E questo fa sì che, insomma, essendo tutta la contrattazione privata, lo stipendio si basa sulla capacità contrattuale dell'individuo. Per uno stesso lavoro una persona può prendere da 1 a 4 volte una cifra. Quindi evidentemente è tutto delegato alle proprie capacità personali in questo senso. Nascita della New Economy. Nascita della New Economy, anni 80 sempre, quindi Silicon Valley, in California, le prime aziende informatiche, un bel po' di euforia perché, insomma, è un nuovo settore in cui poi si immaginava che si sarebbe liberato il lavoratore da tantissimi impegni, per esempio dal tempo, quindi la possibilità di gestirsi il tempo, facilità di guadagno perché è un far west come vari nuovi settori, diciamo, economici, e poi fino alla bolla degli anni 90 in cui c'è stato proprio il boom basato su speculazioni finanziarie, perché si vedeva che piccolissime aziende in pochi anni riuscivano a generare profitti immensi, si sono buttati in mezzo i venture capitalist con l'illusione di poter fare moltissimi soldi. Alcuni li hanno effettivamente fatti, altri sono malamente piantati, e questo è stato, diciamo, il primo periodo dell'economia, delle telecomunicazioni e dell'informatica, fino a quando è scoppiata la bolla speculativa, non mi ricordo esattamente quando, insomma a metà degli anni 90, e si è fatto un po' di pulizia fra aziende con sovrastimate, aziende invece che erano realmente, producevano realmente valore economico, diciamo. Quindi sono stati effettuati tagli rispetto al personale, questo vuoi dire? Sì, assolutamente. Beh, molte aziende hanno chiuso, ci sono stati vari flop storici, ma anche per parlare soltanto dell'Italia, dove una delle aziende che ha avuto molto successo era Tiscali. Poi quando Tiscali iniziò ad avere dei problemi concreti, perché aveva un'ottima immagine, ma insomma non proponeva servizi particolarmente più avanzati di altri, c'è stata per esempio la battaglia delle cosiddette tutele arancioni, è stata forse l'unica grossa rivolta di lavoratori informatici in Italia, a mia memoria. Chiaramente. L'ITC, parliamo di ITC oggi. Sì, oggi, diciamo, New Economy non va più di moda perché ormai non c'è più tanto di nuovo. È un settore che si è consolidato per alcuni aspetti, se ne capiscono meglio i meccanismi. Che però, scusa se ti interrompo, tu per consolidato evidentemente non intendi un consolidamento a livello economico, nel senso che effettivamente queste sono sempre state aziende che hanno fatto profitti su profitti. Sì, no, però diciamo che adesso si conoscono i meccanismi di generazione di profitti più o meno sicuri, quindi navigano meno a vista, si basano anche su esperienze precedenti. Alcune di queste aziende sono diventate dei mostri, insomma, non lo so, adesso va molto di moda parlare di Google. Google ha quei bei 12 miliardi di fatturato annuo, 12 miliardi di dollari, non sono più l'azienda fatta dentro il garage di casa che magari faceva il botto, sono delle vere e proprie multinazionali. Quindi sì, sono delle corporation, chiaramente, che poi tendono, come hai citato il caso di Google, ad acquisire altri contenitori detti così sociali, come YouTube, sì, no? Esatto. E cose del genere. A tutto ciò arriviamo oggi e parliamo anche di Linux. So che sei un esperto di Linux, che lavori con Linux. Che cosa ha effettivamente cambiato la creazione di un software free come Linux? Allora, questo è un discorso un po' complicato e lungo da affrontare in questo momento, però sostanzialmente rispetto al trattamento che poteva avere un'azienda tradizionale del bene software, ossia io accumulo dei capitali, in questo caso conoscenze, e poi ci faccio i trasformo in un mezzo di produzione, mi produce un bene che vendo. Rispetto a questo approccio, Linux è assolutamente antieconomico, non antieconomico nel senso della dell'approccio capitalista tradizionale alla questione. Perché ciò non vuol dire che non comporti comunque una forma di retribuzione o comunque di guadagno, no? Spiegaci come. Però invece di basarsi su un'economia del capitale, appunto, quindi un'economia dove il più grosso attore economico che dispone di mezzi di produzione ha un vantaggio competitivo, si basa su un'economia del lavoro, dunque il bene, il mezzo di produzione sostanzialmente, che è il software, e il bene che viene redistribuito sono gratuiti da un certo punto di vista. Quello che genera il reale valore aggiunto è il lavoro, quindi qualunque impresa può accedere alla pari in base alle proprie competenze sul mercato, dove non vende più appunto miliardi o quello che serve per poi moltiplicare, ma vende forza lavoro. Quindi forza lavoro che si traduce in? Che si traduce in servizi sostanzialmente, personalizzazione, formazione, installazione, consulenze informatiche e via discorrendo. Linux effettivamente si basa su un concetto di conoscenza che non vuol dire conoscenza come proprietà privata, ma quindi come un insieme di conoscenze che, voglio dire, che dalla notte dei tempi si portano fino ad oggi. Questa è la differenza, giusto, in questo caso? Aspetta. Nel senso che Linux rispetto ad un software a pagamento, come dire, mette insieme una serie di conoscenze, ma non ti fa pagare queste conoscenze, ti fa pagare altro. Voglio dire, le conoscenze e i saperi sono liberi in questo senso? Sì, sì, assolutamente, perché questo parte da un'idea che le conoscenze accumulate per la costruzione, mettiamo, di un sistema operativo siano il frutto di una cultura collettiva, di un lavoro collettivo sostanzialmente, di migliaia di persone, di secoli di cultura accumulata, e non di un singolo gruppo di persone che ha raccolto questa roba e ci ha messo sopra un copyright, diciamo. Certo, quindi passiamo adesso quindi al concetto di Common Creative, ossia questi saperi sono beni come l'aria o l'acqua. Esatto, sono dei beni che sostanzialmente sono pubblici, non statali. È un concetto non facilissimo da far passare. No, infatti cerca di... Si riferisce al pubblico. No, dico, fai conto che il pubblico, come dire, non conosce questo concetto, quindi cioè, spiegacelo a parole tue. Scusa. Sì, per spiegare una cosa del genere si usa spesso l'esempio delle commons inglesi, che sono per esempio i prati da pascolo che si utilizzano, cioè che ci sono in Gran Bretagna, che appartengono alla comunità ma non di fatto allo Stato. Lo Stato non li potrebbe rivendere per renderli edificabili, per esempio, però non appartengono neanche ai pastori che ci portano le bestie a pascolare. Un discorso del genere si fa anche con l'aria, con la cultura comune che abbiamo accumulato nei secoli e via dicendo. Quindi con la coscienza che stiamo trattando un bene comune. Esatto, si dice bene il pubblico dominio in questo caso. Allora, sempre con Nicola in diretta, vorrei che spiegassi il concetto di Web 2.0. Allora, Web 2.0 è un contenitore che si utilizza attualmente per l'area del web, dove l'utente non sta soltanto a scaricare ma può mettere dei propri contenuti sul web. Questa è una definizione molto larga che spazia dai più comuni blog a questi strumenti sociali, diciamo, possiamo chiamarli così, come YouTube, MySpace e via dicendo, però vanno fatti molti distinguo su questa cosa, perché anche lì è anche una grande truffa. Sostanzialmente si invita il consumatore a esprimere la propria identità e poi si utilizza questa identità come un prodotto da rivendere agli altri consumatori. Questo, scusa se ti interrompo, è un concetto secondo me assolutamente cardine. Tu stai parlando di, come dire, di una truffa. Che cosa, a cosa vogliono arrivare questi social network? Lo stavi dicendo in questo senso, in questo momento? Allora, diciamo che il vantaggio di un social network per chi investe nel social network è che investe nell'infrastruttura, ma attualmente con il web il limite era piuttosto il contenuto, perché il contenuto andava aggiornato e via discorrendo. Se ci sono milioni di utenti che vengono e portano perché hanno un desiderio di visibilità piuttosto che di esprimere una propria identità o dei propri contenuti, queste cose l'investitore in questione si leva il costo di dover aggiornare e creare i contenuti. Certo. Qui, cioè, si apre anche un problema, secondo me, nel senso che parlando di web, cioè la diffusione capillare delle nuove tecnologie, appunto del web, offre sicuramente una dicotomia di scelta, ossia da una parte offre alle istituzioni un mezzo potente per accrescere il loro dominio, lo stai dicendo anche tu, cerca di creare anche profili commerciali, eccetera, e per non parlare, voglio dire, lì andremo ad aprire un universo infinito, per non parlare appunto del controllo di tutto quello che è successo a server come Autistici, Inventati, eccetera. Dall'altra parte però consente uno sviluppo dell'informazione e della comunicazione indipendente e ordinate, quindi secondo modelli non gerarchici, che comunque aprono la strada a forme inedite di critica e di lotta. Domanda da 100 milioni di dollari, il web in che direzione andrà sempre di più? Sempre di più una direzione di, come dire, affiliazione al dominio, di utilizzo del dominio, o in quello di una comunicazione sempre più dal basso, orizzontale? Beh, adesso vedo un po' che cosa mi dice l'oracolo. No, su questa cosa non è che io non saprei dirti se c'è una direzione piuttosto che un'altra. Sicuramente le due sono assolutamente prevedibili nei vari sensi, nel senso che per esempio il grande grado di libertà che c'era soprattutto all'inizio dei tempi del web non è assolutamente molto. Si possono ancora mettere su dei server anonimi o più o meno anonimi, avere delle utenze anonime per portare avanti delle critiche. Sicuramente si affinano le tecniche di controllo, dipende un po' dalla cultura che si diffonde e si costruisce piano piano nel tempo, da consumatore passivo, consumatore produttore passivo di uno strumento come YouTube a costruttore di strumenti di base come è stato storicamente Indie Media o come sono alcuni strumenti di Autistici oggi. Quindi, come dire, il futuro non è assolutamente precluso ad un uso sociale del web. Detto questo, io ti ringrazio, grazie mille per il tuo contributo e un saluto e a presto. Ciao. A presto, ciao. molte recenti mobilitazioni hanno esemplificato in maniera molto chiara la forma nella quale gli usi non individualizzati ma collettivi e in rete delle nuove tecnologie, vale a dire i telefoni cellulari ma anche le pagine web e la posta elettronica, vanno caratterizzando le nuove pratiche di lotta e vanno modificando le mobilitazioni popolari, anche se lo scenario continua a essere lo stesso. Sì, lo scenario continua a essere lo stesso, ma si modificano i percorsi, si modifica il coordinamento tra i partecipanti, si modificano le risposte di fronte agli interventi della polizia, insomma si modificano mille piccole cose all'interno dei processi e nelle forme operative di tali mobilitazioni popolari. Abbiamo evidenziato nella lunga chiacchierata che abbiamo fatto prima con Nicolà qual è lo stato attuale del lavoratore informatico, un lavoratore che vive quotidianamente in una giungla normativa, che è assolutamente sprovvisto di un contratto collettivo nazionale e che per di più è ai margini circa quelle che possono essere le garanzie reddituali. Se da una parte c'è un lavoratore che si arricchisce con l'informatica, dall'altro vediamo sempre di più lavoratori costretti a subirne tutti i lati negativi, sia della coercizione e dello sfruttamento di questi grossi lobby informati, di queste grosse corporation, sia per quanto riguarda il tempo che dedicano, tempo sempre maggiore a questo tipo di lavoro. Siamo sempre più convinti che nel mondo informatico sia giunta veramente l'ora che si trovi quello che poi è riuscito, determinante nella rivendicazione di tutte le lotte, di tutte le conquiste degli altri lavoratori, ossia che si arrivi ad avere per tutti i lavoratori che operano in questo comparto, che si arrivi appunto ad avere una base, una coscienza di quello che è il proprio lavoro oggi. L'alienazione da qualsiasi concetto collettivo a livello di lavoratori informatici e quindi la persistente consapevolezza che si è soltanto lavoratori individuali certamente non agevolerà il lungo percorso di riconoscimento di tutti i diritti dei lavoratori di questo comparto. Detto ciò, andiamo a salutare tutti quelli che ci hanno ascoltato, soprattutto tutti quelli che ci hanno ascoltato in questo ciclo di 12 puntate. Un ringraziamento particolare a chi è stato in regia in queste appunto 12 puntate. Abbiamo parlato un po' di tutti. Un saluto a tutti e tutte e un arrivederci a presto.